Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, un buon inizio di settimana. I saluti vi arrivano anche da Mira Lucchetti, Isotta Scenna, che sono in redazione, e Paolo Corleoni in regia. Anche questa puntata potete commentarla, potete postare domande a me e ai miei ospiti via sms 349-238-6666, la pagina Facebook è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24. Lo avete sentito anche dal GR, sono ore, sono giorni cruciali per la situazione in Siria e partiamo proprio da lì. Under pressure from the international community, the Syrian government agreed to let UN inspectors investigate the site of Wednesday's alleged chemical weapons attack. UN disarmament official Angela Kane secured agreement for the weapons inspectors' visit during talks with Syrian government officials. The Syrian government has agreed to cooperate and suspend fighting in the area. E come sentite, è stato dato il semaforo verde agli ispettori delle Nazioni Unite che in queste ore stavano proprio recando sul sito ai sobborghi di Damasco per verificare se, ma su quello ci sono pochi dubbi, se fossero state usate armi chimiche, chi ha premuto il grilletto, cioè a chi appartiene la pistola fumante. Quello sarà un po' più difficile. Perché? Perché già gli Stati Uniti hanno tuonato dicendo troppo tardi, il regime potrebbe aver già cancellato le prove. E poi perché altri, che a pensar male non si sbaglia mai, dicono attenzione, potrebbe essere una mossa dei ribelli che in qualche modo sono riusciti a impadronirsi di queste armi chimiche e hanno fatto così superare quella fatidica linea rossa tracciata dall'amministrazione Obama, che prevederebbe poi l'intervento. Tingere ancora più di giallo queste ore, la BBC ha appena dato notizia che il convoglio degli ispettori si sarebbe trovato sotto il fuoco di miliziani non precisati. Non vi sono feriti, ma un veicolo è stato danneggiato. Sono ritornati alla base, hanno sostituito il veicolo e dovrebbero tentare nuovamente di recarsi sul sito, appunto, dove sono state utilizzate queste armi chimiche. E nel frattempo, come appunto avete sentito anche dal GR, riunioni che si susseguono a ritmo vertiginoso, in particolare i capi di Stato Maggiore delle principali potenze occidentali e non solo, sono ad Amman in Giordania. Perché? Perché si sta valutando, forse per la prima volta in maniera, come dire, seria e costruttiva, un intervento militare. Gran Bretagna e Stati Uniti in primis, la Francia d'accordo, la Germania è contraria e la Turchia è pronta a appoggiare l'intervento, lo dice da tempo in verità. Dall'altra parte c'è l'Iran, c'è la Russia che invece, come dire, tirano il freno a mano e dicono attenzione a non superare l'altra linea rossa, che è quella dell'intervento militare appunto da parte dell'Occidente. E quindi do il mio benvenuto, il mio buongiorno a Gianandrea Gaiani, che dirige la rivista Analisi Difesa e scrive tra gli altri per Il Sole 24 Ore. Gianandrea, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Grazie, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, innanzitutto partiamo da quelle che potrebbero essere le opzioni sul campo per Stati Uniti e Gran Bretagna, per ridurre, diciamo, quello che potrebbe essere l'assetto di chi interverrebbe in Siria, perché oggi tutti i quotidiani, anche quelli italiani, si sono lanciati in una serie di ipotesi, hanno fatto paragoni con la Libia, si sono fatti paragoni con il Kosovo. Gianandrea, aiutaci, tu fra l'altro l'hai scritto sul sole24ore.com, queste cinque opzioni possibili dal punto di vista militare, quali sono in estrema sintesi? Ma in estrema sintesi la più morbida, quella più facile da attuare, anzi quella già in atto, è un maggior aiuto ai ribelli. Secondo diverse voci stanno arrivando dalla Turchia 20 convogli con 400 tonnellate di armi e munizioni per i ribelli. Dalla Giordania sono entrati in azione nel sud della Siria i primi reparti dell'esercito siriano libero addestrati dai consiglieri americani in Giordania. La seconda opzione è quella di una rappresaglia che possa ammonire Assad dall'usare ancora armi chimiche, quindi raid, attacchi missilistici con i missili da crociera imbarcati sulle navi, oppure con bombardamenti aerei contro edifici governativi, sedi del regime, comandi militari, un'azione simbolica che non influirebbe sulla guerra civile. Poi ci sono, c'è un'escalation di azioni più importanti, da quella no-fly zone che i turchi e i francesi da tempo chiedono, sì, che però per essere attuata prevederebbe un attacco preventivo contro le difese aeree siriane e quindi coinvolgerebbe in qualche modo anche i russi che forniscono appoggio a questa difesa aerea, fino a pensare a un'invasione improbabile se pensiamo che gli americani possano inviare truppe sul terreno, ma non così improbabile se ci fosse una coalizione ampia nella quale turchi e arabi mettessero le truppe per l'invasione terrestre in appoggio ai ribelli e gli occidentali, americani e britannici e francesi ad esempio, fornissero supporto aereo, intelligence, quello che serve, come un po' è accaduto in Libia se ci pensiamo bene 2 anni fa. Sì, ecco, a parte che io trovo, ma è una mia personalissima opinione, molto retorico, quasi stucchevole dire è stata superata la linea rossa dopo oltre 100.000 morti e 2 anni e mezzo di conflitto e dire adesso è ora di intervenire, questo lo trovo di fronte a questo numero di civili uccisi un po' incredibile, insomma, però questa, ripeto, è una mia personalissima opinione. Fra l'altro un punto fondamentale, un punto nevralgico, Gianandrea, ma correggimi se sbaglio, è chi accostava, no, i vari esempi, Kosovo, Libia, Iraq, eccetera eccetera, c'è un problema sul terreno, nel senso che l'opposizione siriana, che è fatta da una galassia in cui ci sono anche brigate legate ad Al-Qaeda, pone dei problemi a chi vorrebbe intervenire, cioè c'è una difficoltà nel trovare un interlocutore unico, anche forse una scala gerarchica militare, no? Cioè dice noi interveniamo da nord, da sud, eccetera, voi cosa fate? E con chi si parla? Questo forse è uno dei grandi problemi. Guardi, io a parte che sono d'accordo con te sulla tua riflessione, evidentemente 99.500 morti di armi convenzionali valgono di meno di 500, forse meno, morti per un'arma chimica, questo è paradossale, ma al di là di questa riflessione che condivido con te, è vero quello che dici, il parallelo col Kosovo, beh, nel Kosovo intanto fu sufficiente una campagna aerea e i serbi abbandonarono quella, sì, provincia. Assad non abbandonerà nessuna provincia perché in gioco non c'è un pezzo del suo territorio ma la sopravvivenza del suo regime e forse dell'intero paese della Siria. E poi c'è un altro aspetto, in Kosovo c'era l'UCK, un movimento unico, organizzato militarmente e politicamente che si opponeva al regime serbo. Qui abbiamo, come hai detto tu giustamente, una galassia di milizie che rispondono a interlocutori diversi, quindi a paesi vicini, in particolare paesi arabi, ognuno dei quali sponsorizza il suo gruppo, come è accaduto poi in Libia. L'esempio libico credo sia calzante perché oggi la Libia è nel caos più totale. Sì. Un attacco alla Siria oggi senza avere un progetto di regime change già pianificato, già predisposto politicamente, rischia di lasciare la Siria o di farla spezzare in diverse porzioni territoriali, diciamo feudalizzarla, oppure di lasciarla in mano in preda al caos o peggio ancora ad Al-Qaeda. E su questo mi pare non ci sia una riflessione in Occidente, in particolare in Europa, una riflessione sufficiente su questo argomento. Ci si abbandona alla linea americana, la si segue senza rendersi forse conto che i problemi principali i problemi che nasceranno da una Siria in queste condizioni ricadranno soprattutto su noi europei che siamo molto vicini a questo territorio. Certo, e tutte queste riflessioni vanno ovviamente, come dire, unite, corroborate sempre dal pensiero, ripeto, 100.000 morti e passa, e ancora una comunità internazionale che decide cosa fare, se fare. È d'accordo con me, o meglio, sono d'accordo con lui. Non so se l'hai letto, un editoriale di Lutwak che è uscito ieri sul New York Times e oggi la stampa lo riprendeva, Gianandrea, che diceva sia assurdo intervenire dopo questi 500, in realtà non si sa nemmeno quanti esattamente siano i morti per questo gas nocivo. Questo provocatorio editoriale diceva sostanzialmente gli americani perdono comunque, cioè che vinca Assad o che vincano i ribelli, gli americani comunque hanno perso, perché se vince Assad vince anche l'alleato iraniano, no? Il grande nemico, il male assoluto, se vincono i ribelli vincono anche le brigate d'Al-Qaeda. E allora Lutwak, in questa provocazione che insomma giudicate voi, dice l'ideale per gli Stati Uniti sarebbe uno stallo prolungato in cui questi continuano le loro scaramucce, le loro battaglie e si annichiliscono piano piano, che mi sembra però insomma uno scenario assolutamente surreale, ma non voglio dire nemmeno irrispettoso di quello che sta accadendo, no? Ma no, vedi, però bisogna riconoscere due aspetti. Il primo è che gli interessi nazionali vanno valutati al di là delle valutazioni morali. Ci sono interessi nazionali che vanno al di là di valutazioni sul numero di morti e purtroppo anche sugli effetti che le guerre hanno sulle popolazioni civili. Io credo che un errore che stiamo facendo negli Stati Uniti e forse anche in Europa nell'analizzare gli errori della politica estera americana, in fondo le numerose gaffe, qualcuno ha chiamato l'incapacità dell'amministrazione Obama di gestire la politica estera, il ritiro da Iraq, la guerra alla Libia che poi ha portato al caos nel Mediterraneo, sì, e oggi il ritiro dall'Afghanistan, questa guerra che sembra si voglia fare a tutti i costi contro Assad, ha detto bene Lutwak, chiunque vinca perde l'America, ma l'aveva detto anche Martin Dempsey giorni fa, il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Americane, dicendo se noi aiutiamo i ribelli a vincere, aiutiamo forze che non hanno, lui lo disse con un eufemismo, non hanno nessun interesse in comune con gli Stati Uniti, e si riferiva ai qaedisti ovviamente. Però noi dovremmo forse fare un salto di qualità, io credo, nell'analisi della politica americana degli ultimi anni, e cioè la politica americana degli ultimi anni sta portando alla destabilizzazione. Noi non siamo abituati a pensare all'America come una potenza destabilizzatrice, anzi al contrario, l'America fino a Bush che cerca di stabilizzare il Medio Oriente anche con la guerra in Iraq, compiendo errori, ma l'America di oggi da anni, a mio parere, sta perseguendo una politica di destabilizzazione. Di che cosa? Di tutte quelle aree energetiche che restano strategiche, indispensabili per l'Europa, per la Cina, per il Giappone, per l'India, per i competitor economici degli Stati Uniti, ma che non lo sono più per gli Stati Uniti, che con lo shale gas e lo shale oil, la produzione interna al loro paese, agli Stati Uniti, dalla frantumazione delle rocce di gas e petrolio, l'America sta diventando autonoma e nel 2020 sarà un grande esportatore di energia. Quindi il caos in Medio Oriente, anche la gestione raffazzonata della crisi egiziana, prima abbandonano Mubarak, poi sostengono Morsi, poi abbandonano Morsi, sì, ma non sostengono i militari, cioè serve a portare il caos. Allora se noi guardiamo in quest'ottica la politica americana, dovremmo forse chiederci che senso ha ancora la nostra fedeltà nell'alleanza agli Stati Uniti, i cui interessi nazionali, e parlo di questi, non coincidono più minimamente con i nostri probabilmente. È molto interessante, trovo, questo spunto di Gianandrea Gaiani, che ringrazio, ti auguro buon lavoro Gianandrea, alla prossima e a risentirci. A presto, grazie a voi. È tesi interessante, perché Gaiani dice, ma insomma quelle aree lì, il Medio Oriente non è più strategico, perché lasciarlo intatto? Meglio un Medio Oriente destabilizzato, un Medio Oriente che poi serve ai nemici, quindi destabilizzarlo potrebbe essere questa la strategia adottata dagli Stati Uniti. Nessun luogo è lontano. Allora, intanto il BBC sempre fa sapere che gli ispettori dell'ONU sono tornati sani e salvi al luogo di partenza, veicolo danneggiato è stato rimpiazzato, sono pronti a ripartire, si sono trovati sotto il fuoco di imprecisati miliziani mentre andavano a visitare il sito dell'attacco chimico. Questa è la complicata, complessa pagina siriana. Qualche ascoltatore al 349-238-6666 prende posizioni, c'è chi cita la storia, i grandi massacri tragici, quelli del Ruanda per esempio, quelli dei Khmer Rossi in Cambogia, c'è chi dice Lutwak è cinico ma ha ragione, e c'è chi dice invece no, gli piace gigioneggiare la salunga. Ma c'è un'altra grande pagina internazionale su cui dobbiamo concentrarci, è quella dell'Egitto. E allora buongiorno, ben ritrovato a Ugo Tramballi, appena tornato dal Cairo. Ugo, buongiorno. Allora, ieri ancora arresti contro esponenti dei Fratelli Musulmani, processo Mubarak aggiornato 14 settembre, ancora marce e sit-in di protesta dei promorsi, ancora attacchi in Sinai, coprifuoco allentato di un paio d'ore, ma non il venerdì, che resta sempre la giornata calda per le proteste. Ugo, che Cairo hai lasciato? Che aria tira? Ma un'area di crescente normalità a dispetto appunto dell'elenco che hai appena fatto. Ma quest'area di normalità, quantomeno questo desiderio forte di normalità, era cominciato subito, immediatamente, sin dai primi giorni dopo i primi giorni di massacri, nel senso che la gente aveva voglia di tornare alla normalità nonostante quello che fosse successo. Tutti questi avvenimenti che hai citato in qualche modo oramai diventati avvenimenti minori, torneranno a diventare maggiori tempo qualche mese, massimo un anno, quando tutti quei laici che hanno collaborato al golpe militare, cioè dando una giustificazione democratica al golpe militare, scendendo a milioni in piazza a loro favore contro i fratelli musulmani, si realizzeranno, lo stanno già facendo, che forse sono stati usati. E quando i militari, o comunque il governo voluto dai militari, comincerà a impedire loro di tornare in piazza Tahrir, già si vede che ci sono alcuni che hanno già cominciato a prendere posizioni, Tamar Rud e anche i laici che hanno già cominciato a prendere posizioni contro i militari. Quindi la questione non sarà stabilizzata fino a che non nasceranno, si faranno nuove elezioni e non ci sarà una costituzione e non ci sarà un presidente che non sia probabilmente il generale al-Sisi o un altro militare, ma una personalità laica accettabile da tutti. Ecco Ugo, la crisi egiziana si sta muovendo, mi sembra, su due binari distinti, no? Quello, diciamo, la strada, i sit-in, i carri armati, i checkpoint, eccetera. Poi c'è quello giudiziario, perché c'è il processo Mubarak, c'è quello Abadie e Fratelli Musulmani, però anche, leggevo, due note attiviste anti-Mubarak. E mi sembra che si muove la macchina militare, però si muove anche quella giudiziaria, ha sprombattuto, anche se fosse difficile prevedere dove stia esattamente andando. Macchina giudiziaria naturalmente a disposizione dei militari, come è sempre successo. Ci sono già dei casi importanti, l'autorizzazione a procedere nei confronti di El Baradei, che aveva dato le dimissioni dalla vicepresidenza non condividendo i massacri nei confronti della popolazione in campagna, cioè anzi, la popolazione civile, che erano i fratelli musulmani, che poi se n'è andato. E c'è stato anche un altro esposto sul quale, come succede in Italia, cioè, i giudici sono automaticamente obbligati poi a procedere, un esposto perfino contro il movimento dei Tamarud, senza i quali i militari non avrebbero potuto dare una giustificazione democratica al loro golpe, i quali anche loro sono sotto inchiesta per aver criticato la liberazione di Mubarak. Naturalmente è ovvio che quelli che fanno gli esposti sono ovviamente gente del regime, e questi sono appunto dei segnali pessimi, nel senso che i vincitori hanno vinto talmente tanto, hanno potuto fare quello che hanno fatto sostanzialmente senza subire delle sanzioni internazionali in particolare, che probabilmente inebriati dalla vittoria pensano di poter ristabilire, naturalmente senza Mubarak, ma lo stesso sistema politico di potere dei tempi di Mubarak. Grazie allora Ugo Tramballi per questi aggiornamenti e questa analisi. Buona giornata, buon lavoro. Grazie anche a voi. E per darvi un'idea, una dimensione di quanto la crisi egiziana, come dire, sia foriera di conseguenze anche in luoghi distanti, sabato scorso a Kano, in Nigeria, dove vi ho portato giovedì scorso con quella puntata tutta dedicata a Boko Haram, in 5.000 sono scesi in strada e hanno manifestato a favore del deposto presidente Morsi. Però c'è un altro conflitto nel conflitto, se volete, una crisi nella crisi, ed è quella che potremmo ribattezzare come la guerra dei fondi, o meglio la guerra degli aiuti economici. In un paese in ginocchio, con un'economia ai minimi storici, di cui il turismo è solo una delle parti più evidenti, i turisti italiani hanno, come dire, assaggiato la crisi egiziana, cancellando i tanti voli. L'Egitto è un paese che dipende molto molto dall'esterno. Cerchiamo di capire meglio chi si sta fronteggiando sul teatro egiziano e che tipo di braccio di ferro si sta combattendo. E ci aiuta in questa analisi Nicola Pedde, che dirige l'Institute for Global Studies, ricerca sul Medio Oriente e Golfo Persico, presso il Centro Militare di Studi Strategici del Centro Alti Studi per la Difesa. Spero di aver detto tutto. Nicola Pedde, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi e grazie. Allora, dicevo, questo braccio di ferro, come dire, tutto economico, ascoltiamo un po' di numeri così poi entriamo nel pieno della discussione. Se dal 1987 gli Stati Uniti hanno finanziato il Cairo con $1,5 miliardi all'anno, per la maggior parte aiuti militari, l'Egitto sembra ora foraggiato soprattutto dai suoi ricchi vicini del Golfo, sono infatti 12 i miliardi di dollari stanziati dai tre maggiori paesi della penisola arabica. 4 dal Kuwait, 3 dagli Emirati Arabi Uniti e per la maggior parte ben 5 miliardi di dollari dall'Arabia Saudita. L'Europa ha promesso invece un finanziamento pari a 1 miliardo di euro in 3 anni, mentre a oggi gli Stati Uniti si riservano di valutare se erogare nuovamente fondi in favore del paese nordafricano. Per quanto riguarda invece il commercio internazionale, partner principale è l'Europa con il 30% del volume di scambi, seguito da Stati Uniti con quasi il 10%, Cina, Turchia, Arabia Saudita e India. E queste sono alcune delle cifre per darvi un'idea di quelle che sono anche le macchine finanziarie che stanno ruotando attorno al caos in cui è in preda l'Egitto e il Cairo. Vi ricorderete nei giorni scorsi, erano state anche polemiche, era stato il blocco degli aiuti militari. Nicola Pedde, ci aiuti a capire che cosa sta accadendo sul teatro egiziano. C'è un eccesso di cautela da parte di Stati Uniti e Unione Europea o, come dire, i paesi del Golfo sono così spregiudicati che in omaggio alla realpolitik di dicono noi andiamo avanti con i finanziamenti, con gli aiuti, eccetera, eccetera? Probabilmente una combinazione delle due cose, nel senso che dal punto di vista degli Stati Uniti chiaramente ciò che è accaduto in Egitto è configurabile, anche se ci sono state poi delle alchimie verbali come un colpo di Stato, e se tale lo dobbiamo definire, a quel punto la legislazione americana imporrebbe una sospensione dei fondi erogati in favore dell'Egitto, che sono poi in larga misura destinati all'apparato militare, anche se non del tutto finalizzati all'acquisto di armamenti, e quindi dovrebbe interrompere immediatamente questo tipo di rapporto con il paese. Dall'altra parte, la gran parte delle monarchie del Golfo ha visto la Fratellanza Musulmana come una minaccia esistenziale e quindi è disposta a spendere qualsiasi cifra, ad affrontare qualsiasi tipo di impegno pur di impedire che la Fratellanza Musulmana possa radicarsi in Egitto e progressivamente prendere piede anche in altre parti del Medio Oriente. Non converge su questa posizione solo il Qatar, che è stato il grande finanziatore, sì, della Fratellanza Musulmana fino a poco tempo fa, e che ha posizioni nettamente divergenti rispetto a quelle saudita, degli Emirati Arabi Uniti in una certa qual misura del Kuwait, risultando quindi lo sconfitto di questa prima fase di crisi in Egitto. Non è detto che sia uno sconfitto anche nel lungo periodo, bisognerà capire che cosa accadrà adesso in Egitto successivamente a questo colpo di mano. Secondo me non si tornerà indietro da quelli che sono comunque i processi attuati in questi 2 anni di forte crisi politica dell'Egitto, e quindi capire quanto il Qatar potrà avere in futuro una capacità di influenza ancora sul paese attraverso l'erogazione di fondi. Indubbiamente l'Arabia Saudita si è schierata in questo momento come il principale alleato economico del paese e ha manifestamente annunciato l'intenzione di voler sopperire, qualora anche gli Stati Uniti interrompessero l'erogazione dei propri fondi, a tutte le necessità del paese. Ecco, mentre l'Europa e l'Italia invece sono appunto tra le più prudenti da questo punto di vista, però Pedde, 30 secondi se riesce, poi do la pausa ma poi ci risentiamo, non trova retorico dire sospendiamo gli aiuti militari che potrebbero essere usati contro la popolazione? In realtà, insomma, l'esercito egiziano ha munizioni sufficienti per fare le eventuali altre repressioni, no? Sì, diciamo che gli armamenti acquistati con questi aiuti militari non sono certo quelli poi impiegati in termini di ordine pubblico e nelle manifestazioni, per quelli insomma basta veramente poco, purtroppo che l'armamento di base individuale di squadra delle unità militari è quello che solitamente poi trova impiego in questi casi. In realtà ciò che va a coprire la spesa militare degli aiuti è l'intero apparato del sistema economico che ruota intorno alle forze armate, che qualcuno quantifica intorno al 80% dell'intero sistema economico egiziano, quindi tutto quell'enorme indotto che ruota intorno al sistema militare, ma che non è direttamente collegato solo al sistema degli equipaggiamenti e degli armamenti. Ruotano intorno ai militari anche l'industria dei beni di largo consumo, della telefonia, dei resort alberghieri e quant'altro. Quindi è un'immensa macchina economica che alimenta una grandissima quota del sistema economico nazionale. Nessun luogo è lontano. E Il caos egiziano, l'occasione persa per Stati Uniti e Unione Europea e invece l'asso nella manica da parte dei paesi del Golfo? Questa è la domanda chiave a cui tentiamo di dare una risposta in questa seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, quella dedicata alla crisi egiziana. E Nicola Pedde, che dirige l'Institute for Global Studies, ricerca sul Medio Oriente e Golfo Persico, ci sta aiutando a comprendere quanto sul teatro egiziano i paesi del Golfo si sono mossi con maggiore spregiudicatezza. Però Nicola Pedde citava giustamente anche il caso del Qatar, che si è un po' smarcato dagli altri paesi, ed è recentissima la fustigata che il ministro dell'informazione egiziano ha fatto proprio su Al Jazeera, che è la grande creatura mediatica del Qatar, che chi ha seguito anche le rivolte arabe, in primis la Libia dal 2011, insomma, ha preso posizione in maniera nettissima. Io ricordo guardare Al Jazeera in arabo a Bengasi nel 2011, era una specie di grandissimo spottone per la rivoluzione. E volevo tornare su questo caso del Qatar, appunto, con Nicola Pedde. Quali sono gli antitetici e gli opposti interessi di questo singolo paese rispetto agli altri colleghi del Golfo? Il Qatar, che si è esposto così tanto, no, in questi 2-3 anni di, diciamo, la primavera, continuiamo a chiamarla così, primavera araba. Sì, si è esposto enormemente, anzi il Qatar è stato uno degli attori politici regionali che per primo è entrato con alterne vicende nella fenomenologia che ha dato vita poi a quella che viene chiamata la primavera araba. Basti ricordare anche l'esperienza della Libia, dove ovviamente il ruolo del Qatar fu evidente e sin dall'inizio molto importante. Il problema è che il Qatar ha individuato nella Fratellanza Musulmana, e questo ormai da diversi anni, l'interlocutore sul quale puntare per la transizione politica alle vecchie elite autocratiche del Nord Africa e del Levante Mediterraneo. Una visione che ha applicato sia nel Maghreb, in Nord Africa, sia nel Levante, soprattutto il caso della Siria credo che sia evidente, e che si è progressivamente scontrato invece con la visione degli altri componenti del sistema reale del Golfo Persico, quindi delle grandi monarchie che si affacciano sul Golfo Persico e comunque più in generale nella penisola arabica. La Fratellanza Musulmana viene vista da questi come una minaccia esistenziale, come una struttura politica comunque in un qualche modo pluralista, il cui avvento, il cui insediamento politico in Egitto o in Siria potrebbe determinare quel germe che alla lunga andrebbe a interessare la stabilità dei sistemi politici, delle monarchie del Golfo. E sulla base di questo presupposto è stata condotta un'azione decisamente violenta e repressiva nei confronti di tutto ciò che ruotava intorno alla Fratellanza Musulmana e di conseguenza di tutto ciò che ruotava intorno agli interessi del Qatar. Lo abbiamo visto già da 2 anni a questa parte in Siria, dove le formazioni sostenute dal Qatar sono di fatto sempre state in aperto conflitto con quelle sostenute dall'Arabia Saudita e da alcune charities poi riconducibili al Kuwait o agli Emirati Arabi Uniti. Sì. E lo abbiamo visto in modo evidente in questa ultima fase della crisi egiziana, dove il Qatar è stato di fatto soppiantato nel panorama del sostegno politico, degli aiuti economici, e dove è subentrata prepotentemente invece l'Arabia Saudita con la sua visione del tutto ostile a quello che era il precedente assetto di governo. Quanto questo possa durare a lungo periodo, onestamente è difficile prevederlo in questa fase. Grazie Nicola Pedde per questa analisi, per il suo contributo. Buona giornata, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Ed è sempre importante allargare lo sguardo e vedere queste lunghe leve economiche, ma anche ideologiche, perché tutto ciò che accade non accade mai per caso. Compresi anche questi innamoramenti e disamoramenti degli Stati Uniti, ad esempio, nei confronti dei fratelli musulmani. Allora, terza pagina per Nessun Luogo è Lontano di quest'oggi. Vi ricordate il processo a Bok Xilai? The court continued the investigation of charges laid against Bozulai, which include the abuse of power and the freeze and seizure of assets. Il leader del Partito Comunista, caduto in disgrazia, accusato di corruzione, la cui moglie già all'ergastolo per l'omicidio dell'uomo d'affari, insomma lo scandalo politico forse più importante degli ultimi decenni in Cina, ebbene il tribunale ha chiuso le porte. Con che risultati? Che cosa è accaduto? Antonio Talia, Talia, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno Giampaolo a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, Antonio Talia, G-China 24, è stato per lungo tempo corrispondente da Pechino e già l'altra volta, qualche giorno fa, ci ha raccontato le pieghe di questo processo. Raccontaci l'epilogo, se è l'epilogo. Sì, non è ancora l'epilogo perché non abbiamo ancora la sentenza. Il processo si è chiuso oggi dopo 5 giorni e si è chiuso con i fuochi artificiali, nel senso che Bozulai ha, ricordiamo, era accusato di concussione, di appropriazione indebita e abuso d'ufficio, anche di aver coperto l'omicidio di un faccendiere britannico che avrebbe aiutato la famiglia a portare all'estero ingenti somme di denaro guadagnate illecitamente. Bozulai ha respinto tutte le accuse. È stato un processo molto spettacolarizzato, ma anche filtrato sapientemente attraverso i microblog. La Cina ha voluto mostrare che il processo era aperto, quando in realtà non era esattamente così, perché tutto è stato filtrato attraverso le dichiarazioni rese, non sono state ammesse i giornalisti stranieri in aula, per esempio. Diciamo, Bozulai ha effettivamente respinto tutte le accuse. L'accusa invece ha chiesto una pena severa e il colpo di scena finale, oltre appunto al stagionamento di Bozulai, che è stato estremamente di sfida nei confronti dei testimoni che sono stati portati dall'accusa contro di lui, è sì. stato di giustificare sostanzialmente tutto quello che è successo attraverso una storia d'amore che la moglie Gu Keilai, che ricordiamo è stata già giudicata colpevole dell'omicidio di questo faccendiere britannico, sì. con Wang Lijun. Wang Lijun era il principale grande accusatore di Bozulai, era stato il suo braccio destro e è stato l'uomo che è fuggito nel consolato americano di Chengdu e che praticamente ha fatto scoppiare tutto quanto lo scandalo. Va sottolineato però che all'interno di questa difesa Bozulai non ha mai attaccato direttamente il partito, non ha attaccato dei funzionari, ha ammesso come unica sua colpa di non aver vigilato sui suoi uomini, quindi su Wang Lijun, ha ammesso di non aver vigilato sulle finanze di famiglia, quindi su quello che sul denaro che la moglie Gu Keilai avrebbe potuto, del quale insomma si sarebbe appropriata la moglie Gu Keilai. Durante il processo si sono parlati di viaggi pagati da uomini d'affari cinesi per ottenere l'appoggio di Bozulai, ma ha respinto qualsiasi accusa di corruzione. Ha detto che le mie uniche colpe sono state di non aver controllato quello che succedeva in casa, ammetto di non essere stato un bravo funzionario, si è scusato per aver sostanzialmente gettato nel discredito il Partito Comunista, ma ha respinto, ha detto non sono un uomo corrotto, sì. Quindi questo apre il campo un po' a, ricordiamo, non sapremo della sentenza se non tra qualche settimana, quindi ragionevolmente a settembre. Da quello che mi dici Antonio, da quello che ci raccontavi l'altra volta, c'è qualcosa che bolle sotto, nel senso lo faranno fuori politicamente per sempre o stanno tentando o hanno già raggiunto un accordo? Insomma, questo Bozulai alla fine è una figura così ingombrante, così carismatica che forse l'ergastolo è troppo? Cosa ne pensi? Ma allora, è chiaro che è una domanda difficilissima perché nessuno sa cosa succede all'interno certo. del Partito Comunista Cinese. In sintesi, che devo chiudere? telegrafico. Sì, però diciamo non sarebbe la prima volta in cui ci sono delle risurrezioni politiche in Cina, cioè uomini che erano stati dati per completamente spacciati, ricordiamo solamente Deng Xiaoping, che poi dopo decenni invece riemergono e riescono a riconquistare un posto. E sarebbe Antonio l'ennesimo colpo di scena in un processo, in una saga politica che veramente aveva tutti i toni del giallo, del noir, la storia amorosa clandestina, insomma veramente un racconto incredibile. Grazie. È stato qualcosa a metà fra Shakespeare e una soppopera. Ecco, questo è insomma, divertente come fotografia. Grazie per avercela raccontata, Antonio Talia, AgiChina 24, buona giornata, buon lavoro. Grazie. E ho il tempo di salutare. Sì, velocissimo, dai. Allora salutiamo e ringraziamo Miria Lucchetti, Isotta Scenna, che sono in redazione a confezionare con me questa puntata, Paolo Corleone in regia, voi per essere stati all'ascolto. Vi ricordo che l'appuntamento con Nessun Luogo Lontano è domani, ore 13:15. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.